Letture di Radio 24. Ci sono tratti dell'Autostrada del Sole che sono rimasti immutati dai tempi in cui in Italia di auto ne circolavano poche, ma dove ora si formano tutti i giorni code interminabili. Che speranze può avere in un mercato globale un paese che non riesce a collegare nemmeno i tratti vitali della sua economia? Scrive Aldo Cazzullo nella sua rubrica sul Magazine 7. Tra un lamento e l'altro, sulla Salerno-Reggio Calabria, forse sfugge a governanti e oppositori lo stato dell'asse nord-sud, quello che congiunge Roma con cittadine secondarie tipo Milano, Torino e Genova. Si celebra giustamente l'epopea dell'Autostrada del Sole, ma si dimentica che nel tratto tra Orte e Bologna l'autosole è ancora la stessa degli albori, quando l'Italia era un paese agricolo, di fatto una superstrada tra gli Appennini. Oltretutto, chi da 10 anni in qua viaggia spesso tra Roma e il nord è atteso al varco dal blocco di Firenze. Ore e ore di coda sotto il sole e la pioggia, nella settimana e nel weekend, a Ferragosto e a Natale. Firenze è infatti l'unica città europea senza tangenziale e i lavori per la terza corsia dell'autosole durano da tempo immemorabile. L'alternativa sarebbe la dorsale tirrenica, che però finisce dopo pochi chilometri, a Civitavecchia, dove comincia una via crucis di cantieri, corsie uniche, camionisti balcanici cattivissimi, limiti di 70-60, anche 40 all'ora, autovelox messi rigorosamente in fondo alle discese, poliziotti e carabinieri che non battono ciglio di fronte ai camionisti balcanici e fermano volentieri casalinghe e famiglioli in gita. Dell'autostrada si parla anche qui da decenni, con grande allarme di tenutari aristocratici infastiditi dalle utilitarie. Ora forse faranno una superstrada, con i tempi noti. Ora, un paese che non riesce a collegare, non dico le frazioni più remote, non dico la sua lunga dorsale, ma neppure i centri vitali della sua economia, può avere speranze sui mercati sempre più efficienti e competitivi del mondo globalizzato. L'Italia ha un potenziale di sviluppo enorme. È conosciuta in tutto il pianeta come la patria della creatività, del design, dell'arte di vivere. Gli italiani però non lo sanno, e non tutti, ma molti, passano il tempo a lamentarsi e a riposare. I figli o i nipoti dei fondatori vendono, per poi riposare e lamentarsi. Non riusciamo neppure a darci le infrastrutture primarie, a mettere in condizione chi lavora di farlo con successo. Roma, per dire, è l'unica metropoli al mondo dove si raccolgono i rifiuti a qualsiasi ora del giorno e accade di trovare una strada bloccata dalla nettezza urbana alle 11 del mattino o alle 3 del pomeriggio. E nei cantieri che strozzano nodi vitali del traffico urbano o autostradale, preceduti dalla scritta Man at Work, mai una volta che trovi davvero qualche uomo al lavoro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Aldo Cazzullo, L'autostrada dei fori, dal Magazine 7 del 16 giugno. Letture di Radio 24. Dalla linea C di Roma alla diga senza acqua trasformata in pista ciclabile, dalla metropolitana di Parma allo scalo di Viterbo. L'Italia è piena di opere pubbliche pagate dai contribuenti e mai portate a termine. Il record di capitale degli sprechi spetta però a Giarre. Tra le varie infrastrutture rimaste incompiute, nella piccola cittadina del Catanese, anche un campo da polo da 25.000 posti, praticamente tutti gli abitanti del paese. Il polo è uno sport antico e nobile, ma in Italia non ha mai riscosso grandissimo successo. Attualmente la Federazione Sport Equestri censisce 13 circoli e può contare su 16 tecnici federali. Nemmeno male rispetto al numero dei tesserati, circa 150. Insomma, non stiamo parlando di uno sport di massa. Eppure, negli anni 80, a Giarre, qualcuno ha pensato bene di costruire un campo da polo e fin qui poteva persino essere un'idea meritoria, con l'obiettivo di sviluppare una disciplina sportiva non particolarmente diffusa. In Sicilia però le cose o si fanno in grande o non si fanno e così, anziché limitarsi ad attrezzare una struttura per consentire le partite tra due squadre di 4 uomini a cavallo armati di mazza di bambù, si è optato per la realizzazione di uno stadio da oltre 20.000 posti, esclusi alcuni tra vecchi e bambini. In pratica tutti gli abitanti di Giarre avrebbero potuto trovare posto nel fantomatico stadio del polo. Ma lo stadio non è mai stato pensato per ospitare chi che sia, men che meno partite di polo. serviva solo a ottenere un finanziamento proveniente in parte dal CONI e in parte dalla Regione Sicilia, circa 7 milioni di euro ai prezzi di oggi. La sua genesi è il tipico caso di inversione di ruoli tra mezzi e fini. Un finanziamento pubblico dovrebbe servire a realizzare qualcosa di utile per la comunità. E se non c'è nulla da finanziare, basta farsi venire una buona idea. E così, nel 1985, nasce lo Stadio del Polo. Magari, devono aver pensato gli ideatori, strada facendo si cambierà destinazione e sarà utilizzato per altre e più frequentate attività sportive, magari per l'atletica leggera. Non proprio il massimo della trasparenza, ma se anche fosse andata così, considerando l'italica propensione ad arrangiarsi, sarebbe stato persino comprensibile. Purtroppo non è andata così. Per realizzare l'opera è stato espropriato un agrumeto, i lavori sono iniziati ed è stata edificata una tribuna proporzionata alle notevoli dimensioni dell'opera, ma troppo ripida per essere omologata. E infatti l'omologazione non è mai arrivata. Anche perché a un certo punto andarono persi i carotaggi su cui fare le prove di stabilità. Dalla non omologabilità della tribuna alla non finanziabilità della struttura, anche nella variante campo d'atletica, il passo è stato breve. E così tutto rimane a metà. Niente campo da polo, niente spogliatoi, una tribuna impraticabile e non omologata a sormontare una pista d'atletica costruita chissà come e, ovviamente, un'enorme distesa sterrata dove invece di imponenti cavalli da polo scorrazzano i piccoli pulcini del Giarre Calcio. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del libro di Mimmo Torrisi e Gianluca Schinaia, Lavori in corso, perché in Italia si inizia ma non si finisce mai niente. Newton Compton Editori, 240 pagine, 9,90 €. In un paese in cui le intercettazioni non lasciano più spazio alla privacy, conviene adottare un manuale di conversazione telefonica che ci permetta di fare bella figura con gli intercettatori. Spettegolare al telefono non si può più. Era una delle grandi consolazioni dell'esistenza. Starsene sdraiati al mare, seduti alla scrivania, per strada, e sparlare del mondo anche con una certa spavalderia, cioè il coraggio e la brillantezza che tutti sfoggiamo quando chiacchieriamo alle spalle del marito, della migliore amica, del fruttivendolo, del capufficio, del premier. Ma svegliarsi una mattina e trovare il proprio chiacchiericcio sui giornali, senza che ci sia nessun vago legame con un reato, nessun motivo, nessuna necessità, niente di niente, è il deterrente assoluto, la condanna a morte delle conversazioni private. D'ora in poi il manuale di comunicazione telefonica del cittadino prudente che vuole fare bella figura con gli intercettatori, con le procure e con i lettori di giornali, comprenderà poche circoscritte possibilità. Elenco delle opere benefiche appena compiute e dei progetti di decrescita felice che si ha intenzione di mettere in atto, esultanza per il referendum con riferimento esplicito al proprio impegno nell'avere votato e fatto votare, nel caso in cui non sia vero vergognarsi ma raccontare comunque la frottola, elogio della giustizia in genere a ogni inizio e fine di telefonata, riferimenti alla propria vita monacale e alle aspirazioni alla clausura, ferma riprovazione morale di ogni tentazione mondana e pettegola. Se proprio si ha qualcosa di irresistibile di cui sparlare, però, si potrà correre in spiaggia, avendo cura di non essere seguiti, scavare una buca nella sabbia e sussurrare lì dentro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini, Manuale di conversazione intercettata, da Panorama del 22 giugno.